Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Ripeto la premessa che tra poco ripeterò nell'introduzione di questa trasmissione che mi rese felice. Proviamo a fare una lista delle cose per cui vale la pena vivere. Ecco, qual è la cosa che maggiormente vi dà il senso della vostra esistenza? Oppure, se dovreste fare una lista, ditemi quali sono le cose per cui vale la pena vivere, cosa mettereste al primo posto? Ecco, togliete subito quella cosa che è venuta subito in mente, che avrete già detto ad alta voce, siete assieme ad altre persone, togliete altre prime due o tre cose. Non voglio sentir parlare di desideri legati alla carnalità, alla felicità dei sensi, perché è troppo scontato. Ecco, dal terzo posto in poi, qual è la lista delle cose per cui vale la pena vivere? Vediamo se ricordate quali furono al tempo cui mandammo questa trasmissione, vediamo se all'ascolto disimpegnato della crapula estiva ne avreste qualcun'altra da aggiungere. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage. Oggi avevamo un problema qui in redazione a Melog. Si è nuovamente riempito l'armadio dei libri che ci inviano. E quindi risolviamo questo problema nella maniera migliore e più ecologica che noi conosciamo, assegnando tonnellate di fantastici libri infami. Questa mattina tutti coloro che parteciperanno attivamente e creativamente alla trasmissione avranno in dono il libro infame che renderà rosea la loro giornata e sarà un proficuo avvio della primavera incipiente che già sento nell'aria, nel mio corpo rigenerato, con il morbo finalmente allontanato. Di cosa vogliamo parlare questa mattina? Questa mattina vogliamo parlare delle cinque cose per cui vale la pena vivere. Voi direte, che novità, se ne parla già da tanti giorni. È uscito il libro di Saviano, finalmente ispirato al Vieni via con me televisivo, in cui lui elenca le 10 cose per cui vale la pena di vivere. Noi che naturalmente non abbiamo un'aspirazione di qualità di vita così eccelsa come quella di Saviano, ci accontentiamo di 5. Vi faremo ascoltare innanzitutto quelle che sono le 10 cose per Roberto Saviano per cui vale la pena di vivere. Intanto cominciate a pensare, riflettere e telefonare all'800240024 per dire quelle che più modestamente ma più concretamente sono le 5 cose per cui voi avete ogni giorno la felicità di svegliarvi alla mattina. Al primo posto ho messo la mozzarella di bufala versana. Al secondo posto Billy Evans che suona Love Theme from Spartacus. Al terzo posto ho messo andare con la persona che più ami sulla tomba di Raffaello Sanzio e leggere l'iscrizione latina che molti ignorano. Al quarto posto c'è il gol di Maradona del 2-0 contro l'Inghilterra ai mondiali di Messico 86 e quello è il capolavoro massimo. Al quinto posto ho messo l'Iliade. Al sesto posto Bob Marley che canta Redemption Song ascoltato nelle cuffie mentre passeggi libero. Al settimo posto ho messo tuffarsi, ma nel profondo, dove il mare è mare. L'ottavo punto è sognare di tornare a casa dopo che sei stato costretto a star via molto, molto tempo. Il nono posto, che condivideremo tutti, fare l'amore in un pomeriggio d'estate al sud. E il decimo e ultimo posto, dopo una giornata in cui hanno raccolto firme contro di te, accendere il computer e trovare un'email di tuo fratello che dice «Sono fiero di te». Stavolta ho finito. Ecco, io personalmente non ho nemmeno una delle 10 cose per cui vale la pena di vivere per Saviano, che considero per me degna di valore di vita, ma questo è soggettivo. Per voi potrebbero esserci di analoghe o potreste trovare delle corrispondenze. Però io devo porre dei punti, devo cominciare a selezionare. Innanzitutto le cose devono essere 5, non 10. 10 è una attesa sproporzionata ragioni di vita. Bastano 5 ragioni di vita, secondo me. Accontentiamoci di 5. Però io vorrei cose concrete. Cominciamo ad escludere alcuni campi di azione, perché no sarebbe troppo facile. Leviamo il sesso, via. Tutto ciò che riguarda il sesso, via, ma non perché voglia fare il bacchettone, è troppo facile. Io mi ricordo che anni fa il settimanale satirico Cuore fece le 10 cose per cui vale la pena di vivere e naturalmente al primo posto erano tutto un fiorire di piselli topi a seconda del punto di vista. Beh, eliminiamo, diamo per scontato che già quella fantastica, meraviglioso oggetto di dissoluzione ed uscita dal mondo sia al primo posto, quindi è il numero zero. Quindi via il sesso, sarebbe troppo facile, a meno che non sia qualcosa di molto particolare, di molto personalizzato. Poi via tutte le fantastiche cialtronate per sentirsi buoni, buonisti o dalla parte dei buoni, quindi non mi dite il sorriso di un bambino quando ti ringrazia felice che gli ha dato una carezza, il volo di gabbiani al tramonto, non lo voglio. Poi avere nelle mani un buon libro, ma che puttanata è avere nelle mani un buon libro, cose vere, per cui dice ah, che bello, oggi sono vivo, un buon libro, oggi ve ne regalerò tonnellate, quindi oggi potrei fare felici 20 persone. Levate tutte le cose che siano scontate, levate anche accarezzare il mio gattino, il mio cagnolino, il mio uccellino, il mio ramarrino, il mio pesciolino, via gli animali, okay? Leviamo, cerchiamo di sfrondare le banalità comuni, trovate le cose personalizzate. Guardate, io da parte mia mi sono impegnato questa mattina, perché questa mattina abbiamo preso questa fantastica decisione, perché era una bella giornata, ero particolarmente incazzato, quindi ho detto oggi tiriamoci su un pochino prima di affrontare la dura giornata che inizierà dopo le ore 11. Quindi vi posso dire intanto la mia prima cosa per cui vale la pena, anzi ve la dico dopo, vale la pena di vivere. Ne ho scritte 4, però pensate, io nemmeno 5 ne ho trovate solo 4. La quinta la scriverò sul fare della terza parte di Melog, quando mi sarò fortemente ispirato, avrò collazionato i miei desideri repressi, nascosti, subliminali con i vostri. Quindi 8 00 24 00 24, quali sono le 5 cose per cui vale la pena di vivere, escluse le banalità e le pacchianate di cui ho appena detto. Poi le 10 cose per cui vale la pena di vivere, come dice e ammette Saviano, furono ispirate da un notissimo film di Woody Allen, Manhattan, che è del 79 mi pare, in cui c'è Woody Allen seduto su una panchina, guarda il ponte di Brooklyn, e dice quelle che sono per lui le 10 cose per cui vale la pena di vivere. Ci sono certe cose per cui vale la pena di vivere, per esempio io direi il vecchio Groucho Marx, Joe DiMaggio, secondo movimento della Sinfonia Jupiter, Louis Armstrong, l'incisione di Potato Head Blues, sì, film svedesi naturalmente, l'educazione sentimentale di Flaubert, Marlon Brando, Frank Sinatra, quelle incredibili mele e pere dipinte da Cézanne, i granchi da Sam Wu, il viso di Tracy. Cioè, quando le dice stava sul divano, è la locandina che lui guarda il ponte di Brooklyn. Cominciamo a sentire qualche ascoltatore coraggiosamente sta dicendo le sue cose. Già vedo su Facebook, comunque sono arrivati, avendo messo io poc'anzi, mentre ero incerto nella parola perché avevo le mani occupate, la mia richiesta già comincia a arrivare. 5 figli, ecco, già eliminato. Francesco dice i figli, che c'entrano i figli? Va per scontato. La morte, dice Gian Piero, grattiamoci ciò che allontana da noi la paura della morte, ma non c'entra, è ostentativo, non voglio qualcuno che dica delle cose semplicemente per stupire noi piccoli borghesi. Non vogliamo avere cervello vuoto da qualsiasi pensiero. No, è vaga, una cosa precisa, avere la mattina un pensiero preciso, quello sì. Le cose vaghe non le voglio, le cose indecifrabili, voglio le cose molto precise. Leggere i 10 per cui campa Saviano, la mozzarella, Bob Marley, questo gli piace. Vabbè, uno si accontenta di avere le stesse aspirazioni di vita di Saviano, va benissimo per loro. Carla, buongiorno. Buongiorno. Andiamo, 5 cose precise, decise, escluda il sesso, so che sarebbe la prima, ma non la voglio sapere. Perché no, voglio... no, niente del genere. Va bene, allora, andiamo al punto. La prima che mi viene in mente, una domenica d'inverno, quando fuori piove è brutto, accendere il camino e passare l'intero pomeriggio sbracata sul divano con mio marito e mia figlia a vederci un bellissimo film noleggiato o su Sky. Accettata, questa va bene, sì, la condivido. 2. Poi. Allora, stare sul terrazzo in primavera, seduta con i piedi per aria sulla ringhiera, al sole, con gli occhi chiusi, fumarmi una sigaretta. Bene, vediamo che lei ha un'aspirazione per ogni stagione, vediamo se c'è l'autunno allora, e l'estate coperta. Per l'estate, per esempio, andare a Parigi per la prima volta, portare mia figlia 14enne a Parigi, accedere dal ponte delle Arti, arrivare alla Cour Carrée, lei non se ne sa conto, uscire fuori, trovarsi davanti la piramide, vedere mia figlia che scoppia a piangere dall'emozione, sì, perché era al Louvre, non me lo scorderò. Vabbè, mai quella più. Può piangere una volta nella vita, la seconda volta che vede la piramide si fa una risata, cioè, che palle mamma, la prossima volta portami a Ponte Felcino che è meglio. E invece no, lei voleva andare al Louvre, quindi l'emozione, ha pianto 5 minuti di fila. E poi questa è l'estate. Andiamo esempio al punto, stringiamo. tutte le mattine svegliarmi un pochino prima per concedermi il grande lusso di andare, prima di entrare al lavoro, andare al bar, prendere il caffè, comprare il quotidiano, non dico quale, mettermi fuori, leggerlo e fumando la sigaretta. Questo sì, questo è plausibile, è una bella lussura mattutina, ne manca una, mi sa. Oddio, la quinta ci devo pensare un secondo, non ho avuto il tempo abbastanza. Dunque, la quinta quale può essere? Vabbè, via, mentre ci pensa, le do io la quinta ragione per vivere. Complimenti! Hai vinto un libro infame! Sarà l'orgoglio della tua biblioteca! Allora, simpatica ascoltatrice Carla, che immagino proveniente da quell'area etrusca e che tanto soddisfazione vedette nella vita, perché possa trovare ispirazione per la quinta ragione della sua pallida esistenza, completamente spalmata in pallidi piaceri di tipo familiare domestico, di Giulia Blasi, nudo d'uomo con calzino e altre imperdonabili gaffe del maschio sotto e sopra le lenzuola, editrice Einaudi. Contenta, Carla? Ma tantissimo, io sono grande lettrice, perfetto. E grande ammiratrice di uomini con i calzini. Immagino suo marito davanti al caminetto e si metterà in mutanda e non si toglierà i calzini come fanno i mariti. Grazie, Carla. Andiamo al prossimo fantastico ascoltatore, Antonio. Buongiorno. La prima cosa per cui vale la pena di vivere, secondo me, cioè per me, la mattina è alzarsi e cercare un ottimo scatto fotografico. Cioè, lei vuole essere soggetto dello scatto o fotografo? No, fotografo. Io tutte le mattine quando mi sveglio dico, speriamo di trovare un bello scatto da fare. Cioè, lei la mattina accade qualcosa che merita, secondo lei, di essere fotografato, quindi deve immortalarlo. Ma è vicino a lei, accanto a lei, addosso a lei o deve uscire di casa? Io vivo con la macchina fotografica di fianco, quindi... E se la porta a letto anche la notte? Esattamente, di fianco al letto. Quindi lei appena si sveglia, tac, fa subito uno scatto? Più o meno, sì, aspetto forse di uscire di casa per vedere cosa c'è fuori. Vabbè, questo è il primo, questo è il primo. Ne vale la prima. La Poi? Seconda cosa per cui vale la pena di vivere è imparare qualcosa di nuovo tutti i giorni. Questa no, questa fuori, questa è troppo è da Boy Scout, dai. È da Boy Scout. È veltroniana, allora questa storia, no? Passiamo alla terza, via. E vedere il proprio figlio che impara una via, cosa. Via, bambina, già, no, è troppo facile, via. Troppo no, sta declinando allora, pericolosamente allora nel buonismo parrocchiale, mi dispiace. Allora passiamo a questa, fare il bagno nell'Adda. Il sabato, la domenica, quando si è liberi, quando si è un attimo libero, prendere, spogliarsi, buttarsi nell'Adda. Tutti nudi nell'Adda, questo già mi sta recuperando. E se qualche amico ti chiama e ti dice dove sei? Sono all'Adda, vengo lì, porto un po' di carne, facciamo una grigliata, si fa sera lì. Perché lei fa il bagno tutto nudo ma col telefonino in mano, naturalmente. Esattamente, sì. Cioè lo immagino, dentro l'Adda, controcorrente, con la mano fuori col telefonino. È bellissimo. Che aspetta l'amico. Questo già mi pare recuperare. È successo. Vediamo se ne ha un altro per recuperare. Un altro per recuperare, sono molto banali, è la mia vita, forse per voi è un po' banale, però per me andare a pescare in mezzo alla settimana quando tutti lavorano. Vabbè, può migliorare, Roberto, può migliorare. Andiamo avanti, perché noi abbiamo preso su YouTube dei ragazzi di un liceo che dicono anche loro quali sono i motivi per cui vale alla loro tenera età di vivere. Le cose per cui secondo me vale la pena vivere sono la musica, la cultura. Mia mamma, mio papà e la bicicletta. Gli amici, tutte le persone che ti vogliono bene. La figa e l'acqua. La droga, l'alcol, esiste qualcos'altro? Vabbè, la famiglia, la figa. La figa. Gli amici, la famiglia e l'istruzione. La figa. Vedete, le giovani generazioni sono piuttosto banali nell'esprimere le priorità della loro vita. L'innominabile oggetto del trasporto lussurioso dal punto di vista del maschio eterosessuale è quello più frequentato. Banalmente si dice questa cosa, perché poi in realtà non è proprio quella, non è esattamente quello, o perlomeno è tutto il contorno che sta a corollario, ad anticipare, a avere una lunga scia emotiva rispetto a quell'innominabile oggetto. Quindi è banale definirlo semplicemente in una parcella anatomica, non è quello esattamente. Ragazzi, impegnati. Io, come avevo anticipato, vi devo dire quali sono per me i 5 motivi. Avete una musica adeguata di sottofondo? Beh, ecco, mandatela, vediamo un po' come... Orrenda fisarmonica da festa paesana. Va bene, questa, tira su. Vi sembrerà banale e sciocco, ma chi ben mi conosce, pochi che conoscono me, la mia vita, la mia biografia, le mie aspirazioni, le mie modeste attese di vita, sanno che è esattamente così. La cosa che più mi rende felice, con l'immenso e incommensurabile amore che ho per la mia famiglia, è starmene a casa mia, da solo, un giorno e una notte, per non fare nulla, per avere la gioia e la lussura di alzarmi quando mi pare, di andare in bagno quando mi pare lasciando la porta aperta, di girare per casa anche voglio nelle condizioni che voglio, di non avere obblighi di cucina, di sentire odori di cucina, di avere una casa profumata come piace a me, illuminata come piace a me, vuota, deserta, risonante soltanto nei miei passi come piace a me. Mi dice Maria, l'ossessiva gruppi messicana: primo, mangiare pasta e tacos, grazie, li fabbrica e li vende; secondo, andare al cinema; terzo, viaggiare in aereo; quarto, comunicare grazie a internet; 5, avere un bravo marito, ma anche un amante perfetto che non stressa completamente e completa la vita. Penso che abbia sentito suo marito, spero che abbia detto suo marito. Non dirlo in onda. Ah, non l'avevo letto l'ultima riga. Vabbè, scherzava, via, non se la prenda, signor marito della signora messicana. Renato, buongiorno. Buongiorno. Io sono un 62enne che gioca ancora a fare il bambino. Vabbè, allora andiamo a vedere un po' prima di morire cos'altro può aspettarsi dalla vita. Dunque, posso elencare le cose per cui adoro vivere? Per cui vale la pena di vivere, adoro vivere, non lo so. Va bene. Allora, intanto gettarmi da una montagna con il deltaplano da volo libero. Va bene. Deltaplano. Una bella traversata in barca a vela, possibilmente oceanica. Vabbè, lei è troppo estremo comunque. Barca a vela, sì. Una bella canzone di Paolo Conte. Poi in realtà va a giocare a bocce tutte le domeniche. Comunque va bene, dai. Terza, Paolo Conte. Sotto le stelle del jazz. Incredibile, assolutamente. Una bella guidata su una corvette sulla strada che porta da Miami a Key West, cosa che ho fatto diverse volte e mi fa impazzire. Sì, anch'io ci vado fra mezz'ora, proprio perché trovo che se non si comincia bene la giornata se non si fa questo giro. Sì. Poi? E gli ottimi vini della mia zona, sto nel Castagnetano, quindi Sassicaia e compagnia bella, la sera con la pioggia in mezzo al bosco, abito in mezzo al bosco e quindi che vuole fare? Allora, prima Sassicaia, poi la corsa in corvette, e poi si butta col deltaplano, poi se le resta ancora un barlume di vita si fa un giro in barca a vela. Questa è la sequenza che io le suggerisco. Sì, purtroppo è così. Le mie preferenze sono queste, tutto quello che... Guardi, l'insindacabile giudizio della giuria, non sarei molto d'accordo, è di procedere in questa direzione. Complimenti! Hai vinto un libro infame! Colmerà il vuoto dei tuoi scaffali! All'ascoltatore Roberto, dalla vita così perigliosa, così dedicata comunque all'estremo limite irraggiungibile, perché si ricordi che la vita è fatta anche di cose piacevoli che in realtà non portano a rischiare la propria vita, il fantastico libro di Manila De Benedetto, per un editore che ha scritto troppo piccolo, Coniglio editore, il fantastico libro infame Donne e altri animali feroci. È contento? Felicissimo. Donne e animali feroci sono quelle che fanno bene alla sua vita, il giusto complemento. Grazie Roberto, arrivederci. Grazie. Andiamo avanti con Stefano. Sì, buongiorno a tutti. Io sono molto più terra-terra, devo ma dire. Io spero che siano persone terra-terra, perché la fighettaggine di alcuni ascoltatori, in cui parte anche questo Roberto, che alla fine abbiamo dato il libro infame perché dobbiamo votare l'armadio e alla fine dobbiamo darli, è che dicono cose che fa figo dire ma in realtà nessuno fa. Io voglio sapere cose che quotidianamente, come la prima signora ha detto, il cappuccino, la sigaretta e il giornale la mattina prima di andare a lavorare, che è un grande lusso se uno se lo può permettere. Quindi cose che si possano fare. Infatti una era quella, la sigaretta dopo il caffè sicuramente. Sì. La seconda è ambivalente, ovvero la Fiorentina intesa come squadra di calcio e come bisteccona. La terza è vedere, non è andare a pescare, è vedere... Aspetti, lei è Roberto? No, io sono Stefano. Sono Stefano. Lei è Stefano, ho fatto un po' di casino. Quello che ha parlato prima come si chiamava? Non me lo ricordo. Renato, perché ho fatto... Renato. Perché io sto facendo le dediche mentre parlo, quindi è Renato. Avevo scritto Roberto Cancello Renato. Bene, così non sarà il primo libro con la dedica corretta. Andiamo avanti, Stefano. La seconda è un pochino più fine, nel senso che è vedere il sughero che va giù quando sei a pescare. Perché ah, non grande. Sai che mondo, non sai che mondo ti si può... No, no, lei mi ha ricordato un lampo fanciullesco. Anche io andavo a pescare la mattina all'alba, c'avevo un laghetto artificiale di nostra proprietà sotto casa, e il bello era vedere quando si muoveva il sughero all'improvviso, che c'era la tinca sotto che lo stava addentando. Bellissimo. Sì. Perché poi si apre un mondo, non sai mai cosa ti può... Nulla a che fare con la pesca a strascico, naturalmente. La pesca galleggiante è la vera pesca del nulla facente, quella che più amo. Anch'io tante volte con i miei amici mettiamo lì le canne a fondo e stiamo lì, parliamo... E poi... Ma lei parla di sughero o di aculeo di porcospino, che è un galleggiante molto più sensibile? No, io ho cominciato tanto tempo fa con mio nonno, ma avevamo già il sughero, quindi niente. Quello, no? Il vecchio tappo di bottiglia con il fiammifero infilato dentro, quello che si fa sì, a casa. E si colora con i colori a tempera. Sì. Va bene, Roberto, poi? Niente, allora, così non me ne vengono in mente altre, davvero. La niente, allora non le do una mazza, mi dispiace, poi sbaglio il nome. Allora me ne posso far venire in mente una? Al volo, se dici una in 30 secondi, c'ho un libro infame meraviglioso. Sì? Vabbè, allora via, diamoglielo lo stesso. Complimenti, hai vinto un libro infame. Hai qualcosa da lanciare nelle liti domestiche. Allora, a Stefano, che io chiamo impropriamente Roberto da circa 10 minuti, per la sua incompletezza nel descrivere le sue gioie, ma per la sua fantastica maniera di avermi risollevato da un ricordo che avevo assolutamente sepolto nella mia memoria più interna, do il più infame dei libri infami che avevo in mano, che però è ottimo essere lanciato perché è molto contundente, ha dei bordi taglienti, vivissimi, è piccolo, tascabile, e se lanciato come una stella da lottatore ninja, spacca la testa a metà, è perfetto, di Gianluigi De Marchi, Tanto va il cliente in banca che ci lascia il capitale. Viaggio nei misteri, nelle contraddizioni del risparmio gestito, consigli per una finanza etica, che senz'altro è un libro che a lei manca. La saluto, buona giornata. Le 10 cose per cui vale la pena vivere. Le 32 sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven. I dolci allo zabaione. Il colore del Mediterraneo. Tutti i film di Stanley Kubrick. Gli occhi e i sorrisi dei bambini. Il caffè e il giornale del mattino. Venezia e Roma. Il sabato mattina. I fratelli Karamazov di Fyodor Dostoevskij. Il rumore degli uccelli e delle foglie in un bosco. 800240024, queste sono altre 10 ragioni di vita che ha trovato Fabrizio Intonti su internet. Vedete, molte corrispondono, ci sono dei numerosi luoghi comuni nel descrivere le proprie ragioni profonde di vita. Ad esempio, qui hanno messo i bambini, che hanno detto di toglierli perché è troppo scontato, troppo banale. Poi devono essere cose che sono appetibili a tutti, chi non c'è ragazzini che fa può pensare quanto sia bello e gioioso avere il sorriso di un bambino. Poi uno deve prendere anche la controparte di lessamento gonadico quotidiano per svariati decenni, capito? Perché poter dire che quello ha un valore, se no in assoluto è una cosa che non ha assolutamente senso. Io, come avevo detto, mi stavo scrivendo i miei 5 punti, ne ho scritti 4, ancora non intravedo il quinto, anzi, da messaggi che mi stanno arrivando su Facebook comincerei a vederne i margini sfumati, ma non sono raccontabili per radio, e poi entrano nella categoria che abbiamo detto che forse è meglio non citare. Vi comincio a dire quelli che secondo me è il secondo e terzo punto, così arriviamo alla base. La mia seconda vera ragione di vita e da senso spesso alle mie giornate, soprattutto quando me ne vado in viaggio e che le metto belle piegate dentro la valigia, è indossare una camicia nuova, ancora con le pieghe, quelle che si tolgono gli spilli, quando c'ha quel buon profumino di cotone fresco. Mi piace tanto. L'odore delle camicie di cotone e l'odore del cotone mi fa impazzire. Se l'odore del cotone è troppo forte diventa quasi odore di canapa, mi fa venire la tosse. Ma l'odore del cotone intermedio mi fa veramente impazzire. Piace mettere la camicia nuova, quando ti accarezza addosso quella cosa incontaminata, non le camicie dei cinesi intrise di formaldeide ti fanno già sentire come un cadavere in via di trattamento conservativo. No, le camicie fresche, quelle belle, quelle fatte bene, quelle con le cuciture, quelle con i polsini belli spessi, quelle con le asole dei bottoni che non si sfilacciano, quelli coi bottoni belli, grossi, di madreperla, ben cuciti, che non si allentano, quelle che hanno tante belle pieghette davanti, che rimangono ancora attaccate. Quando levi lo spillo, rimane il buco dello spillo, tanto bello robusto il cotone. Quelle senza bottoncini ai bordi dei colletti, che li odio. E quelle che il colletto rimane bello, fermo, immobile. Quelle che ancora c'è lo spazio per infilarci il bastoncino dentro il colletto, che non ne trovo più da tanti. Questo è il mio secondo motivo di vita. Premetto, il terzo motivo potrebbe sembrare all'apparenza, nel suo inizio, appartenere alla zona dell'innominabile. Vi assicuro, è il più casto dei miei motivi di vita. Non c'entra assolutamente niente con l'area innominabile, di quella pulsante cosa che tutti vorrebbero mettere al vertice delle proprie aspirazioni di vita, ma in realtà non è così. Cosa mi piace a me? Nessuno se la prenda, nessuno si offenda, amici, congiunti, passati, presenti, futuri. È una cosa puramente personale, basata su sensazioni, su cose che si guardano, su cose che si ascoltano, su cose che si assaporano e che danno piacere alla lingua e al palato. Mi piace uscire nel tardo pomeriggio di primavera da un salone di parrucchiere con i capelli appena fatti, con la manicure e la pedicure appena fatta. Lo trovo fantastico, meraviglioso. Guardate, non sono un feticista del corpo, un maniaco o di quegli uomini che si mettono dalla mattina alla sera cremine e oli profumati addosso, ma in parte. Ma averci mani e piedi appena fatti, di primavera. Perché primavera? Per primavera dei calzini molto leggeri, addirittura ma nemmeno metti i calzini. Però delle scarpe che metti per la prima volta, magari la prima volta che metti le scarpe estive, o delle scarpe nuove, ancora meglio. Ancora meglio mettere dentro delle scarpe nuove, leggere, con dei calzini molto leggeri, il piede appena uscito da una manicure. Deve essere femmina, deve essere brava, deve essere lavorato molto bene. Non quegli omacci con il camice bianco che hanno le cesoie in mano, che quelli vanno bene per le unghie incarnite dei vecchi, per i piedi caccolosi dei putrefatti, per le mani arrovellate dei fumatori. No, voglio una gentilissima manicure e pedicure che mi faccia delle mani e dei piedi perfetti, e uscire con quel venticello che c'è nelle serate di tardo pomeriggio di primavera inoltrata e sentire il fresco addosso di queste meravigliose operazioni appena fatte sul mio corpo. Francesca, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Andiamo al punto. Allora, la mia prima ragione di vita sono le lenzuola di mia mamma, che stanno sempre di buono e stanno di quando ero bambina. Quindi quando vado a casa di mamma e faccio il letto, mi piace tantissimo. Sono quelle del corredo ancora, con l'orlo a giorno fatto dalle suore, belle e spesse. Diciamo che una volta erano quelle, adesso sono rimaste quelle di cotone normale. E allora qual è la differenza? Qual è la differenza? Che lei le lava con qualcosa che io non sono mai riuscita ad adottare. Non so se è l'acqua, il sapone che usa, è l'ammorbidente, non lo so, ma fa un mix geniale, molto meglio dell'olio di lavanda, per dire. Sarà, come, quindi, sarà da come le stende sua madre il lenzuolo? Può darsi, perché lei le stende sempre al sole. Insomma, ecco, io mi ricordo... Quella è la differenza. Noi le stendiamo in orrendi terrazzini, sì, condominiali, e si impregnano di puzza delle cucine dei vicini e dei condizionatori. In casa, peggio ancora, sullo stendino in casa, quando vengono gli ospiti, vedono la sfilata dei calzini, delle mutande, o se no nelle asciugatrici. Invece a stenderle al sole, con un buon detersivo, il lenzuolo si impregna di raggi del sole e poi li emana quando avvolge il tuo corpo. Mi va bene. Gianluca, che poi un giorno, quando sono andata a Milano a vivere, sì, il primo giorno che ero andata lì, ho dovuto fare il letto con le lenzuola di mamma, mi sono messa a piangere. Per dirti la forza di questo Sì, perché odore, poi il materassino, no? Sintetico ci suona male. Poi la seconda cosa. La seconda è Il favoloso mondo di Amélie, film che tutte le volte mi emoziona, anzi ci emoziona, mio marito. È la sigla dei miei desideri. Sì, infatti. Quindi abbiamo dei punti in comune. Tra l'altro è il film che ci ha fatto innamorare, per cui insomma. Con chi? Con mio marito. Ah, ecco, no. Ho un attimo un frisson impalpabile. Poi? Nina Simone. Che chi è? Nina, non conosci Nina? Scusami, no. Gianluca, è una cantatrice jazz del diciamo, ho questa del lacuna, fra le mie tante lacune ho questa lacuna. Poi? Poi c'è Ryuichi Sakamoto, nello specifico so perfettamente chi la sia. Canzone Forbidden Colors, e sì, ogni volta che viene a Roma lo vado a vedere, mio marito non ne può più. Sì. E come quinta e ultima direi riuscire oggi a svegliarsi tutte le mattine con un sorriso Sì, ma questa no, questa no. No, no, questa no, no, no, questa è una pippa, scusa. Una brutta depressione. No, questa è, vabbè, no, è uscita la depressione. Stanotte avrei sbattuto la testa sul muro, ma che è la depressione? Dai, o dai un quinto desiderio, ti seguo, subito, al volo, no, concreto, no. Carnale, reale. Questo, no. Va bene, allora peggio altri. Per te, vai. Grazie. Andiamo avanti con Emma. Buongiorno Nicoletti. Vedete, non ho pietà nemmeno per chi non arriva al fondo del compito che gli è stato assegnato. Era partita bene questa signora, è finita male, è stata segata. Attenzione, la motosega fa molto male alle ginocchia. Allora, prima ragione per cui vale la pena vivere per me è le falesie di Etretat in Normandia, che mi sono piaciute tantissimo. Va bene, via. Mi sta bene. Poi. Seconda ragione per vivere è un libro, Interrogatorio alla Contessa Maria di Aldo Palazzeschi. Sì, vabbè, perché ogni volta che lo apre ha dei fremiti di piacere. Sì. Poi, terzo punto, acquistare collari lavorati per i miei cani. Sì, non voglio sapere l'uso che fa, abbiamo detto i cani non devono esistere. Quindi, no, ma i collari. Collari vabbè, lei acquista collari da cane, poi ne fa quello che vuole e le dà piacere. Esatto. Va bene. Poi, la carne cruda che fin da piccola il macellaio mi dava... Cioè lei si fa mettere il collare e poi mangia la carne cruda. Questo è il completamento della sua piacere. No, guardi, non c'è nulla di male, se me mette questo la gratifico fortemente. Passeggiare nella nebbia. Beh, certo, naturalmente. Se uno ha l'olfatto del cane e ha un bel pezzo di carne cruda fra i denti e un collare giusto al collo, può andare attraverso qualsiasi nebbia. Va bene, mi piace. Complimenti! Hai vinto un libro infame. Sarà l'orgoglio della tua biblioteca. Alla fantastica Emma, dai desideri sproporzionati, così irrituali e così trasgressivi, attribuisco il fantastico libro infame dell'autore del lato oscuro dell'amore, Rafik Shami, L'amante di Damasco, che è un romanzo meraviglioso che sicuramente sarà il quinto dei suoi desideri. Il White Album dei Beatles, 8,5 di Fellini, Gli spaghetti con le vongole, I racconti di Kafka, Il cartone di Sant'Anna di Leonardo da Vinci, La Mussaca, La mongolfiera, L'inizio della metafisica di Aristotele, Le Dolomiti al tramonto, I gianduiotti. Questi erano i motivi di vita mixati del professor Alessandro Chiappini e di Fabrizio Intonti. Ora, come definire quali sono dell'uno e quali sono dell'altro? Vi dico che Fabrizio Intonti è un filosofo, il Chiappini, oltre ad essere un perfetto conoscitore, fornitore di materiali nominabili per tutto il film trash della storia del cinema italiano, è un noto cultore della buona cucina, hanno messo insieme i loro desideri, chi vuole la moussaka, chi vuole appunto gli spaghetti con le vongole o qualcosa del genere, chi guarda i tramonti, chi sogna la metafisica o i cartoni dei tempi che furono. Devo dire che mi fa molto specie vedere che invece via SMS, che è una forma di feedback che uso poco ma le giucchio ogni tanto, la materia preponderante dei desideri, delle ragioni di vivere è, lo dico con grande delicatezza, che già sono stato ampiamente, duramente colpito e censurato, ma giustamente ripreso, perché in passato dedicai attenzione a questa area innominabile dell'esistenza. Dico, è dedicata alla libera espressione delle rumorosità corporee. Ecco, non lo volevo dire all'inizio perché mi sembrava logico che non si dicesse questo, però molti dicono che una delle vere ragioni di vita è stare in un posto acusticamente isolato, aperto all'impossibilità di nuocere al proprio prossimo ed essere liberi, come si fosse animali, di esprimersi sonoramente anche non attraverso le vie fonatorie ortodosse. Lo prendo, lo registro, non posso naturalmente parlarne in maniera più approfondita, è fra gli argomenti che mi ha interdetto di parlare, quindi non lo dico. Andiamo avanti, avevo detto che avrei detto quali sono i miei 5 motivi di vivere, ne mancano ancora 2, sto pensando all'ultimo, ma intanto vi dico il penultimo. Anche in questo caso devo fare una premessa, non c'è nessun riferimento a persone, luoghi, o situazioni storicamente riscontrabili. È un'aspirazione che è nell'aria, è fatta dell'insieme di tante sensazioni vissute o da vivere o immaginate di aver vissuto o sognate o passate o fluite o lambite o semplicemente accennate. Non è riferito a persone, nessuno se la prenda, nessuno si offenda, nessuno immagini di essere il protagonista attivo di questo mio quarto motivo di vita. Uno dei motivi per cui vale veramente la pena di vivere è bere un margarita fatto a regola d'arte, all'imbrunire, con una donna con dei bei capelli che non sia né moglie, né amante, né aspirante tale. Dania, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno a tutti. Andiamo allora, al punto dei tuoi desideri. Sì, numero uno, shopping. Sono una fissata delle scarpe e dell'intimo. A comprare scarpe e mutande, dai, diamo sì, al punto. Cazzeggiare su Facebook mi rilassa tantissimo. Con le scarpe e le mutande nuove, naturalmente. Sì. Poi mangiare bene, ma soprattutto oltre a mangiare bene, non dover cucinare e quindi andare a cena fuori. Perfetto. Diciamo che mettiamolo in un ordine cronologico, capito? Sì. Uno prima si acquista scarpe e mutande, poi cazzeggia su Facebook e trova gli amici. E poi magari trova uno che ti paga cena. Perfetto, e si fa invitare fuori a cena l'amico. E poi? Giusto. E poi gli amici, sentirsi considerati, ammirati e avere delle persone su cui fare affidamento, mi piace. E per ultimo, ma non per meno importanza, è andare a fare asparagi nel bosco insieme a mio padre. Oh, bella, questa la metterei per prima, perché sai perché? Perché è originale. Andare a fare asparagi è qualcosa di molto particolare, perché per cogliere gli asparagi nel bosco bisogna conoscere l'erba asparagina, che non tutti la conoscono. La gente la confonde con il finocchio selvatico, con dei rovi, con degli spini, quindi si fa male alle mani. Ma non è facile, non è facile lo so bene, perché si mimetizzano, sono il colore uguale. Cioè, però quando uno trova una bella asparagiaia, li trova così belli, carnosi, profumati, non come quelli che si comprano, tutt'altra cosa. Con mio padre facciamo le gare, no? Lui è esperto del bosco, va a fare funghi, asparagi di tutto, more. Vabbè, mi è piaciuta questa, mi è piaciuta. Meriti la giusta gratificazione. Grazie. Complimenti, hai vinto un libro infame. Colmerà il vuoto dei tuoi scaffali. All'ascoltatrice Dania, per colmare con criterio e con continenza il primo accesso ai suoi desideri innominabili, il libro di Alessandro Schwed per l'editore L'Ancora del Mediterraneo, mio figlio mi ha aggiunto a Facebook, per non sbagliarsi quando poi cerca in scarpe e mutande nuove gli amici su Facebook. Grazie. Grazie a lei Dania. Matteo. Grazie, Matteo. Sì, buongiorno. Andiamo. Sono Matteo. I miei 5 motivi sono: un giro in moto nei primi caldi in primavera, una corsa d'estate sotto la pioggia. A piedi però questa? Sì, questa a piedi. Una partita a Texas Hold'em, un torneo, partecipare a torneo questo, Texas Hold'em. Ma partecipare, partecipare proprio? Sì, sì, no, li faccio ogni tanto. Ma online o... No, live, solo dal live. Dal vivo. Online non mi piace. Cioè con non il fumo, con tutta l'attenzione. Ah, certo, perfetto. Non mi danno l'adrenalina. Bella, una cosa maschia, estrema, sì. E fumarmi una sigaretta alla sera, dopo cena, facendo un sudoku, quando ho messo a letto i figli. E io mi ricordo quando ero ragazzo che andavo a pescare con mio nonno a Totanare, si usava i sugarelli, non si usava, si usava praticamente la lenza in mano e lo strappo che dava il totano quando si aggrappava alla lenza era un'emozione. Allora lei, diciamo, aggiunge qualcosa ad uno dei desideri profondi di vita dell'ascoltatore l'ha preceduto, che diceva vedere il galleggiante che affonda, ma molto più avanti, una sensazione più intensa, è una sinestesia più profonda, sentire il filo di nylon che ti taglia il dito indice quando il totano abbocca. È questo? Sì. Mi sembra perfetto. Andiamo avanti. Complimenti! Hai vinto un libro infame. Ho solo un minuto. Hai qualcosa da lanciare nelle liti domestiche. Solo un minuto, tagliamo velocemente. Non so perché, ma perché ce l'ho in mano all'ascoltatore Aldo. Aldo era? Sì. No, era Matteo. L'ascoltatore Matteo è così bravo nel raccontare il desiderio del pescatore. Do il mio divorzio, non c'entra niente, ma lo aiuterà casomai ne avesse bisogno a superare il dolore della separazione e trovare la via per vivere felice e contente. Andiamo avanti. Angelica, l'ultima. Sì, ciao. Velocemente. Che poi devo dire il mio. Sì, Angelica, veloce, veloce. Allora, uno è fare la doccia e poi poter girare nuda per casa. Brava. Fregandosi se quelli di fronte ti guardano oppure no. Corrisponde con il mio desiderio. Due, è l'olio dopo la ceretta. Io sono una cultrice della bellezza, però non lo so, mi dà una sensazione particolare. Essere spalmata d'olio quando si è bella depilata. Esatto, spalmata. Nuda come una statua, depilata e spalmata d'olio. Poi? Poi io ho detto i vestiti, poi in effetti la carta nuova dei giornali, delle riviste, il profumo della carta nuova mi fa impazzire. È incartata come fosse, diciamo, un bel regalo e un bel pacchetto. Brava. Complimenti, hai vinto un libro infame, sarà l'orgoglio della tua biblioteca. Allora, perché stemperi i suoi desideri, che sono leggermente oltre rispetto alla decenza di questa trasmissione, all'ascoltatrice regaliamo di Franco Voli L'arte di essere nonni fantastici. E io devo chiudere la trasmissione e vi dico il mio quinto desiderio. L'ho scritto adesso, pochi istanti fa. Vi assicuro, è molto personale e molto esclusivo. A me, uno dei motivi veramente per cui mi alzo la mattina, non dovrei dirlo, ma è proprio questo, è parlare alla radio e ascoltare la mia voce nella cuffia e rendersi conto è come se fosse la voce di un altro, perché quello che dico non è che lo penso io, è come se lo pensasse qualcun altro. Ascolto le mie parole, ma anche mi rendo conto dove possono venire. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.